qui è nata tutta questa grande incomprensione, questo dramma, spesso anche nei millenni. Ora il Papa in questa rilettura dice: no, non è così. Non si può identificare questo con il popolo ebraico. Chi erano gli accusatori, secondo Giovanni, sono semplicemente i giudei, ma questa espressione in Giovanni non indica affatto il popolo di Israele come tale, ancor meno essa ha un carattere razzista, scrive il Papa. Insomma, i seguaci di Barabba, l'aristocrazia del Tempio, ecco chi volle condannare Gesù, ma non il popolo ebraico. Beh, un'interessante lettura, anche sul Manifesto c'è un'interessante intervista a Amos Luzzatto su questo. Amos Luzzatto che comunque dice: nessuna novità, ma che lo dica un teologo fa sempre piacere. Ci dobbiamo fermare per il GR, ci sentiamo subito dopo. 24 mattino, l'intervista. Alle 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare per la nostra intervista di oggi l'assessore alla protezione civile della regione Marche, Serenella Guarna Moroder. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e a tutti. E sappiamo che le Marche, insomma, sono state duramente colpite più di altre regioni dalla pioggia, dal maltempo di ieri. Purtroppo si registrano due morti accertati, una dispersa, una ragazza che però insomma è difficile pensare che se la sia cavata. Le regioni Marche di cosa hanno bisogno, assessore, in questo momento? Guardi, purtroppo lo stato di criticità non è ancora terminato, per cui dire che di quello che abbiamo bisogno adesso è abbastanza presto, nel senso che la cosa più grande e più preoccupante è che non è stata colpita una zona della regione, ma la regione tutta. Dunque l'elenco delle cose di cui avremo bisogno sarà veramente lungo. Chiederemo sia lo stato di emergenza che di calamità naturale. Lei diceva delle tre persone purtroppo che questo maltempo ha portato via, perché ha ragione, le speranze di trovare questa ragazza viva sono ormai ridotte a un lumicino. C'è la necessità, ma questa popolazione lo sa ed è ben coesa, di stare tutti allerta, perché possiamo avere altri problemi nelle giornate future. Sta nevicando anche a quote basse, per cui poi c'è il pericolo di scioglimento di queste nevi, per cui i corsi d'acqua si potrebbero di nuovo alzare e poi esondare. No, ma la situazione sicuramente è critica. Senta, dal punto di vista di protezione civile siete attrezzati o c'è bisogno di più uomini anche da livello nazionale? Guardi, tutti quanti si sono mobilitati, per cui le forze dell'ordine insieme ai tanti civili hanno dimostrato veramente un'attenzione massima. Abbiamo in questo momento la situazione sotto controllo. Se dovessimo avere bisogno, sicuramente chiederemo aiuto. Sì. In alcune zone già è stato fatto, quindi alcuni vigili del fuoco sono venuti da altre regioni, ma quello di cui io ho particolarmente bisogno di sottolineare è proprio la totalità di questa coesione, che ci ha permesso per adesso di rispondere in maniera... Senta, lei ha fatto cenno all'emergenza, stato di emergenza e calamità naturale, ma ve lo aspettate già da oggi, da questa mattina c'è il Consiglio dei Ministri oppure no? Come lei sicuramente saprà, di tutti gli schieramenti, tutte le forze politiche, quindi tutti gli onorevoli senatori hanno già chiesto un'attenzione particolare per la nostra regione. Dobbiamo fare purtroppo la conta dei danni, non solo per la calamità naturale chiederemo risorse, ma anche per l'emergenza, lo stato di emergenza. Avete già fatto una stima dei danni? Si stanno facendo le stime in questi giorni, ma come le dicevo prima, purtroppo lo stato d'allerta non è terminato, rimane certo critica la situazione su tutta la regione. Sì, no, leggevo anche di vari ponti lesionati, strade chiuse, insomma la situazione è purtroppo in evoluzione. Per concludere, Assessore, le chiedo questo: spesso si parla di calamità naturali e mai sono dissociate da una incuria da parte del territorio e quindi dalle colpe anche dell'uomo e anche le colpe della politica. Da questo punto di vista voi avete anche un mea culpa da fare? Assolutamente no. Il fatto stesso che, le dicevo, tutta la regione è riuscita ad essere monitorata dalle forze e di polizia e di vigili del fuoco e dei volontari, la dice lunga, nonostante, le ripeto, tutta la regione sia stata interessata. L'evento che veramente non si ricordava da 40 anni è stato in qualche modo, e mi pare in maniera importante, affrontato dalla coesione e dalla distribuzione dei vari compiti e ruoli, sì, di ciascuno. Quindi non era prevedibile, dice, è stato un evento di una portata gigantesca, anche perché non è stato concentrato in un unico posto. Tutta la regione, sì, certo, è stata, certo. Questa è la drammaticità dell'evento. Allora, intanto staremo a vedere. Io per il momento la ringrazio, Assessore Serenella Guarna Moroder, l'assessore alla protezione civile della Regione Marche. Grazie per essere stata con noi. Ovviamente anche durante il corso della giornata seguiremo questa vicenda. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi nel nostro sondaggio parliamo allora di questa proposta. Come è stata definita in vari modi la proposta? Targhe alterne, conduttori alternati, proposta da Mincul Pop l'ha definita Michele Santoro. Bruno Vespa invece oggi dice: è una proposta magari irrealizzabile, ma è un qualcosa che serve per cercare di fare qualcosa, per esempio su Rai 3, dove dal buongiorno alla buonanotte c'è la crociata contro Berlusconi. Questo l'ha scritto Bruno Vespa oggi in un commento sul Quotidiano Nazionale. Allora, la proposta è quella del senatore Butti, che in Commissione di Vigilanza Rai ha detto: perché non pensiamo alla conduzione alternata dei talk show della TV di Stato, cioè non solo conduttori schierati da una parte, ma una settimana schierati da una parte, una settimana magari controbilanciamo con un conduttore che è schierato più da un'altra parte. Che ne pensate? Conduttore a settimane alterne per i talk show della Rai, siete favorevoli? Di questo vi chiediamo nel nostro sondaggio. Votate su radio24.it o ne parliamo tra pochissimo con i protagonisti all'800 24 0024. 24 mattino. E allora nel nostro sondaggio di oggi parliamo, se volete intervenire 800 24 0024, se volete votare invece su radio24.it, parliamo di questa proposta che viene dal senatore Butti in Commissione Vigilanza Rai, che è stata definita come in tanti modi targhe alterne ai conduttori dei talk show e poi in modo anche più duro a vedere dai titoli dei giornali di oggi. Ma è il nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris lo voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Non so, per esempio il Fatto Quotidiano titola in prima pagina: la grande idiozia, una demenziale idea di alternare i conduttori. Però, oppure il presidente della RAI, Garimberti, ha detto: se passa questa idea la consideriamo come una sfiducia a tutti i vertici della RAI. Però per esempio Bruno Vespa oggi, in prima pagina nel commento del Quotidiano Nazionale, dice: forse un'idea, anzi sicuramente un'idea irrealizzabile, ma l'idea del senatore Butti viene fatta perché non si sa dove sbattere la testa per equilibrare palinsesti televisivi che nelle trasmissioni di approfondimento sono fortemente sbilanciati a sinistra. E allora, senatore Butti, buongiorno. Sì, buongiorno. Alessio Butti, senatore del PDL, membro della Commissione Vigilanza RAI, autore di questa proposta. Con noi c'è anche Loris Mazzetti, che è dirigente della RAI, storico braccio destro anche di Enzo Biagi. Buongiorno Mazzetti. Buongiorno a voi. Scrive anche spesso sul Fatto Quotidiano. Allora, senatore Butti, ci spieghi qualcosa in più. Intanto facciamo questo paradosso: nella sua RAI ideale stasera va in onda Anno Zero con Santoro, e giovedì prossimo che dovrebbe succedere? Trago immediatamente questa schematizzazione, perché io credo che ora sia giunto il momento di parlare seriamente, di farlo leggendo le carte. Innanzitutto la proposta non è di un singolo parlamentare, ma è di una maggioranza ed è la sintesi di un lavoro lunghissimo condotto dalla Vigilanza RAI anche attraverso dei seminari organizzati dalla Presidente Zavoli, ed è la sintesi delle audizioni effettuate dalla vigilanza, nelle quali abbiamo ascoltato esperti di televisione, direttori di rete, direttori di testata, direttore generale, lo stesso presidente Galimberti. Una premessa: se dipendesse dalla RAI noi non cambieremmo nulla, questo sia chiaro per tutti quanti, perché alla fine non c'entra né la destra né la sinistra, c'entra il famoso partito RAI che impedisce qualsiasi innovazione. E un broadcasting che non consenta, un sistema quindi di televisioni che non consenta delle innovazioni, vista anche la tecnologia che consente determinate soluzioni, beh, è destinato evidentemente a soccombere. E questa è la premessa, insomma. Com'è? Questa è la premessa, dice, non è un'iniziativa sua, non è un'iniziativa. Sono 20 punti, sì. Sono 20 punti. Mi stupisce il fatto che ci si concentri esclusivamente su questa proposta della alternanza e mi stupisce perché evidentemente sugli altri 19 c'è l'accordo, quindi mi sembra di capire che se... Forse quella che fa più discutere, quella che fa più... Vabbè. Sì, va bene, facciamo discutere, probabilmente per un verso ha ragione Vespa, io non credo che sia inattuabile, non è tecnicamente inattuabile, perché prima di fare queste proposte abbiamo ascoltato i dirigenti della RAI, abbiamo ascoltato persone che di comunicazione se ne intendono, abbiamo valutato la questione anche sotto profilo contrattuale e quindi non è assolutamente inattuabile. Che cosa chiediamo? Semplicemente questo: il martedì e il giovedì, le prime serate del martedì e del giovedì sono letteralmente appaltate a due format e a due conduttori che rappresentano una sorta di formazione culturale che evidentemente non è riconosciuta da almeno, dico almeno, il 50% degli italiani. Mm. Allora nessuno chiede la soppressione di questi spazi e ci mancherebbe altro. Sì. Chiediamo esclusivamente di poter alternare a questi spazi altri spazi e altri format condotti da altri soggetti. Perfetto. Forse la RAI mi vuol far credere, ci vuol far credere che non ci sono professionalità all'interno di un'azienda dove ci sono 13.000 dipendenti in grado di prendere un microfono questo no, e di questo reggere no. una telecamera. L'obiezione però, senatore, poi sentiamo anche Mazzetti, è questa, cioè che problema c'è se anche fosse che il martedì c'è Ballarò che è, dico questa cosa che a me non piace, però insomma è sbilanciato da una parte, o giovedì c'è Santoro sbilanciato da un'altra parte. Altre serate, qualcuno può dire, c'è Porta a Porta che magari più sbilanciato da un'altra parte, ci sono altri programmi. Guardi, come prima ho detto, queste sono trasmissioni che vanno in onda nel prime time delle giornate migliori. Ah, ecco. Porta a Porta va in onda alle 23:30. Mi scusi, ma ci sono circa 6 milioni, 5 milioni di telespettatori che ballano, questa è la sostanziale. Ah, questo è il problema, no? Che martedì, giovedì, prima serata, senza che ne so, la Champions League di contrattare, senza grandi... Il martedì e giovedì sono le giornate migliori, il lunedì in Rai c'è la fiction, il mercoledì c'è la Champions, ci sono i recuperi di campionati, il venerdì c'è l'intrattenimento, il sabato ovviamente non se ne parla e la domenica ci sono Fazio, ci sono Report, c'è Iacona, insomma ci sono tutti questi, quindi martedì e giovedì sono indubbiamente, come si dice simpaticamente, la ciccia dei palinsesti. Ora, chi paga il canone ha il diritto di poter vedere qualcosa di diverso? Loris Mazzetti, allora, che ne pensa di questa proposta che il senatore Butti tra l'altro dice non è una mia proposta, non è una cosa come viene dipinta, strampalata, mi sono svegliato la mattina, ho posto un problema, ma è stata una cosa più articolata proposta. Però veniamo su questo punto dei 20 che fa più discutere, che ne pensa? Ma io credo che sia una grandissima sciocchezza. Sono d'accordo con il senatore Butti quando dice che la sua proposta di atto di indirizzo di pluralismo andrebbe giudicata nel complesso di tutti i 20, di tutti i 20 punti. Nello specifico questo fa più discutere, ma è una grande sciocchezza perché... bisogna dire alcune cose che sono fondamentali. Allora, la dimostrazione che non è vero che il martedì e il giovedì sono le giornate di maggior ascolto, eccetera, eccetera, l'abbiamo dimostrato noi con Vieni via con me, che ci avevano dato il lunedì proprio perché c'era la grande fiction contro e qualcuno sperava che noi facessimo poco ascolto, e invece abbiamo superato il 30%. Ecco, questo è stato però un evento, come dire, un unicum, ecco, c'era sì, Saviano, certo. C'era... Ma non c'è dubbio, però voi dovete tenere presente anche una cosa, che l'ascolto di Ballarò e l'ascolto di Anno Zero, Anno Zero supera il 20%, Ballarò è intorno al 17-18%, eccetera, sono ascolti guadagnati in anni di messi in onda, cioè Ballarò quando andò in onda la prima edizione faceva il 7%, quando tornò in onda Santoro lavorava al 13-14%. Quindi lei dice un'altra cosa farebbe abbattere lo share e quindi anche... Io chiedo rispetto per quei 5-6 milioni, a volte 7 milioni di telespettatori che guardano queste trasmissioni, ma poi il problema vero non è questo, e lo sa benissimo Butti, perché è uno che viene dalla televisione ed è una persona estremamente intelligente e colta da un punto di vista televisivo. Il problema è un altro, il problema è che fare questo tipo di gioco vuol dire massacrare la RAI, perché vuol dire raddoppiare le redazioni, perché gli autori che eventualmente lavorano con Vespa il secondo martedì o il secondo giovedì saranno gli stessi che lavorano con Santoro o con Floris. Non è così. Allora io dico, adesso Vespa andrà in onda in prima serata, benissimo, noi sappiamo che cosa significa andare in onda in prima serata e su Rai 1. Vespa negli ultimi anni le prime serate le ha fallite tutte, sì, 13%, cito alcuni esempi, 13% addirittura sul terremoto, 11 e qualcosa per cento quando si parlò del caso Englaro, eccetera eccetera. Allora, vogliamo fare un altro tipo di ragionamento? Vogliamo dire che se vogliamo dare e accendere le voci, creiamo altri spazi? Il senatore Brutti aveva detto e ha scritto una cosa interessantissima, che auspichiamo nuovi format. Perfetto. Sì. Allora, proponiamo nuovi format, attiviamoci noi dirigenti a creare nuovi format per la televisione. Va bene, aumentando gli spazi, mettendo in crisi l'esistente. Allora, sì, quello che c'è. Senatore, cosa risponde a questa? Effettivamente sarebbe un rischio, un po' anche un azzardo, buttare via quel 20% di share, perché chi ha detto che se hanno zero, al posto di hanno zero c'è un'altra cosa, ci sia il 20% di share? Nessuno l'ha detto Mazzetti, ma nessuno si sogna di dirlo questo. Anche perché poi non è che ci sia un 20% a tappeto, come si suol dire, hanno zero e ho qua i dati davanti, per cui oscilla dal 13, 14, 15, arriva anche a punte del 18%, ma data la professionalità di Santoro, io credo che il 20% realizzato al martedì possa essere anche il 20% realizzato in un'altra fascia e in un altro giorno. Torno a ripetere, nessuno vuole sopprimere nessuno. Perché questo è importante. Nessuno l'ha mai detto, però, che lei vuole sopprimere qualcuno. Neanche i giornali, molto critici. Santoro sul 20%? No, lo vogliamo solamente alternare ad altre voci. Capito, ma non è una... Perché quello spazio non è di proprietà di Santoro. Ma no, certo, ma non è una cosa normale, ma non è questione di proprietà. È come senatore, se domani il mio direttore mi dicesse oggi sei andato in onda alle 8:30, domani vai in onda alle 12, dopodomani vai in onda alle 13, cioè è una questione di palinsesto che voglio dire... Come dire, cioè è un'anomalia, almeno questo me lo consentirà, no, senatore? È lunedì. Lunedì prossimo c'è un altro, lei torna tra 15 giorni e così lei è certo che ogni 15 giorni ha il suo appuntamento fisso. Sì. Perché guardi che la trasmissione di Santoro, quella di Floris, ma di chiunque altro, non mi interessa colpire Santoro o Floris, di chiunque altro avesse quelle rendite di posizioni. Non sono delle soap opera, non sono delle fiction per cui ci sono gli episodi, non si deve seguire un filo diretto, no? Sì. Ci sono delle puntate che si aprono con un argomento e si chiudono, ma dicendo Seguendo quello che dice Mazzetti, dice: noi dirigenti Rai possiamo sederci, valutare. Amici miei, svegliatevi, la gente aspetta questa soluzione da 10 anni, e il pluralismo, la libertà, l'accesso al servizio radiotelevisivo che è pagato dal canone, val bene anche il raddoppio delle redazioni, perché in Rai si spreca tantissimo, questo teniamolo ben presente. Quindi qualora vi fosse un raddoppio di redazioni, benissimo, se serve innanzitutto a non aumentare evidentemente i costi, perché i redattori interni ci sono, le professionalità ci sono, e poi c'è una grande risorsa da salvare: la libertà, il pluralismo, la televisione, la RAI è di tutti. Vabbè, ma anche tutti, ma perché adesso non è così, cioè è della sinistra Butti? Beh, senta, qua c'è un 8-0 da sistemare, perché 8-0, ma no, me li elenchi tutti e 8, li voglio tutti e 8. Hanno 0 lo metto io, l'aiuto. Ma guardi, Ballarò. Mezz'ora, Ballarò, Fazio, la Dandini, che non si capisce se fa un approfondimento o qualcosa di satira, Iacona, Report, Agorà, insomma potrei continuare. È arrivata a 7, credo, l'ottavo adesso, il traffico, e poi l'ottavo forse lo troviamo, ma forse ne ha detti 8, no, l'8 erano 0, non lo so. 8-0 per la sinistra, il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Voglio dire che tra l'altro il 71% dei nostri ascoltatori che vota sul sondaggio su Radio24.it si dice contrario a questa proposta, ma voglio sentire Renato da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica Renato. Per lo spazio che mi ha dato. Dica. Senta, io voglio dire semplicemente questo: noi italiani siamo un popolo diviso, siamo divisi in guelfi e ghibellini. Questa è stata un po' la grande debolezza del nostro popolo, anche però la nostra forza. Ora io credo che in questo momento Berlusconi vorrebbe farlo, ma mi ricorda un film degli anni 70 in cui c'era la Fene, c'era Renzo Montagnani, c'era che film? Un uomo che aveva, il titolo non me lo ricordo, vabbè, ma che l'impotente, che aveva una bella moglie, diceva lui vorrebbe ma non può. Lui vorrebbe farlo, ma non ha la forza di farlo, perché se sui suoi. Perché c'è paura, dietro, lei dice c'è dietro Berlusconi, questo è Berlusconi. È logico che c'è lui. Ma c'è sempre Berlusconi. Se non si parla sempre di Berlusconi, vabbè, dica Renato. La sinistra, Santoro, dalla prima all'ultima parola non fa che parlare di Berlusconi. Cioè, la sinistra non fa che poi sinistra, cioè quel gruppo di persone che dicono destra e di sinistra, che si oppongono a Berlusconi, non fanno altro. Ma perché attaccano lui? Perché lui è l'unico che prende tanti. Vabbè, ma lei lo vorrebbe? La vorrebbe questa alternanza o no? Ma certo, cioè, che la vorrebbe. Non si farà perché gli stessi del suo partito non lo sosterranno, come anche va bene. Grazie. No, non arriviamo alla riforma della giustizia, sennò poi corriamo, il tempo corre. Grazie Renato. Roberto dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono contrario ovviamente alla proposta, anche perché, cioè, il discorso è questo: che facciano, perché non cambiano invece i giorni, visto e considerato che dicono che il martedì e giovedì sono i due giorni ottimi per fare queste trasmissioni, che cambiassero i giorni alle trasmissioni, secondo me avrebbero comunque lo stesso share alla fine. Questo lo penso io. Quindi lei è contrario comunque, grazie. Sì, sono contrario. Voglio andare da Luca alla provincia di Milano. Luca! Niente. Loris Mazzetti, 8-0 dice Alessio Butti. Qua c'è la sinistra che controlla, insomma, i talk show di informazione, il Rai. Ma evidentemente d'ora in poi dobbiamo chiedere, no, prima di far firmare un contratto ai nostri conduttori, chiedere da che parte votano, come la pensano, eccetera. Io credo che il problema non sia l'8-0, io credo che il problema, e non sia neanche Santoro, il problema sono gli argomenti che Santoro tratta, insomma, se devo fare un paragone con Porta a Porta, ricordo che quando ci fu il caso, esplose il caso Ruby, Porta a Porta trattò un approfondimento su una fiction di Rai 1, eccetera, eccetera. Credo che questo sia il problema. Sul fatto di queste trasmissioni, Io vorrei capire dov'è il vero problema. Cioè, si parla tanto, per esempio, di Travaglio, no? Sì. Ma Travaglio è sempre conto bilanciato, c'è Porro, o c'è Belpietro, o c'è qualcun altro. Se c'è Bersani. Dov'è il problema? Alessio Butti dice, per esempio, che sono 8-0. Cioè, dov'è il problema? Che sono sbilanciate. Questo è il problema. Mi permette una domanda, sì, al senatore? Certo, Butti. È qua. Cioè, abbiamo parlato in Rai per alcuni mesi dell'arrivo su Rai 2 di Belpietro con, sì, la sua trasmissione. Perché non è stata fatta quella trasmissione? Non so. Vorrei ricordare al senatore Butti l'esperienza di Socci. Che prese il posto di Santoro dopo l'editto bulgaro, eccetera, eccetera. Vabbè, ma cosa vuol dire? Cioè, cosa ci vuol dire, Mazzetti? Ma cosa vuol dire? Che uno che è un giornalista che magari ha un'estrazione culturale, diciamo così, di centrodestra, per semplificare, così tutti ci capiscono, A me non interessa se quel giornalista appartiene, rappresenta il centrodestra o il centrosinistra. Sì. A me interessa il che dato faccia di fatto. Una buona trasmissione è una trasmissione che faccia ascolto, allora, una trasmissione, no, che porti soldi all'azienda in un momento di grande crisi. Siccome ha citato la questione di Travaglio, sì, i 5 tagli di budget che noi abbiamo subito nelle reti in questi ultimi 2 anni. Vabbè, queste sono cose. Come si fa a non tener conto di tutte queste cose? Senatore, visto che è stata citata la questione di Travaglio, conduttori, e vedrete che risparmiate qualcosa. Il problema sono lo stipendio di Santoro adesso. Senta, la questione Travaglio, senatore Butti, perché lei è uno di quelli che ha detto Travaglio va appunto controbilanciato, no? Comunque gli opinionisti, non Travaglio, gli opinionisti in genere vanno controbilanciati, devono avere opinioni. Guardi, Mazzetti è bravo, però qui non ci sono fessi, quindi bisogna chiarire già questo primo aspetto. Insomma, parlare di Socci, poi se vuole possiamo parlare anche di Fred Flintstone, che qualche anno fa, no, e con gli antenati conduceva un programma sulla Rai. Ma che cosa vuol dire? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma è mai possibile che qualcuno che capisce cosa sia la televisione paragoni Travaglio, che fa l'opinionista, non fa l'ospite semplicemente, come ha detto Mazzetti citando altri ospiti suoi pari grado? Travaglio fa il fervorino, fa il comizietto, tutte le volte ha 3, 4, 5 minuti a disposizione davanti a 5, 4, 3, 6 milioni di italiani, esprimendo un'opinione che è la sua opinione. E vabbè, ci mancherebbe. E quindi non è la verità. Allora, se vogliamo effettivamente favorire il contraddittorio, quando si esprime una tesi, evidentemente c'è sempre anche la facciata B, no? Di quella tesi, certo, dovrebbe esprimerla qualcun altro, quindi non mettiamo le pere. Però è come quando si dice, senatore, adesso arriverà Ferrara, e io non sono d'accordo spesso con quello che dice Ferrara, ma dico ben venga Ferrara, cioè che problema c'è? Ferrara farà una sua trasmissione, dirà le sue cose, non è che subito uno c'è subito dietro uno che dice il lato B di Ferrara. No, invece guardi, è proprio esattamente quello che sta succedendo, cioè Ferrara ancora non è partito e da 2 mesi si sta discutendo, allora alterniamo anche Ferrara. Guardi, non c'è alcun tipo di problema. Se serve per aggiungere voci, se serve per aggiungere pluralismo, si alterni anche Ferrara. Ma lei pensa davvero che la commissione di vigilanza ha dei problemi in questo senso? Mm-hmm. Però, se vogliamo paragonare il cameo di Ferrara, che il Mazzetti ben conosce, essendo stato il capo struttura di Biagi, certo, ben conosce quella fascia. Se vogliamo rappresentare che quella fascia sia identica a quella del prime time del martedì e del giovedì, mi arrendo. Allora si arrenda, anche perché il tempo è finito. Grazie al senatore Alessio Butti del PDL, membro commissione di vigilanza Rai, e Loris Mazzetti, dirigente Rai, collaboratore storico braccio destro appunto di Enzo Biagi, come è stato ricordato, collaboratore del Fatto Quotidiano. Ci fermiamo qui, mi spiace per Luca, l'abbia recuperato ma non c'è tempo, così come Lorenzo dalla provincia di Brescia, li recupereremo come ascoltatori, con Elisabetta Fusconi in redazione, Alessandro Longoni anche in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi diamo l'appuntamento a domattina alle 7:20.